porsi di fronte al linguaggio è sempre, c'è il loro io, è un io che si pone, che dispone anzi di un linguaggio prefabbricato, che sta lì, in codici, comuni. Mentre questo mal dei fiori è visitato e è inerme, è abbandonato al linguaggio, da soggetto, in quanto da subjectum, cioè è assoggettato al linguaggio, lo subisce senza l'io, senza un'identità. Quindi addio è l'apposta al cartolin, per dire le milanese, per dire eccetera, eccetera, eccetera. Addio all'amore, c'è il porno, la queda del porno, contro l'affanno dell'amor facchino, così è definito nel testo, di Eros, figlio di miseria, di penuria, di penia, ed è poros, espediente, e niente, che in genere ha sempre equivoci e fraintendimenti e soprattutto affanno, cosa che nel porno non c'è, perché nel porno si dà l'annichilazione, la pietrificazione, cioè l'incantamento, l'incantesimo. Non c'è più il soggetto, l'oggetto. I versi finali, per esempio,